Prova. Morire a nevata, cazzo, adesso mi poterà fare compagnia a me. Se entrava qualcuno a parlare, cosa? A Roma con un rimani usuru. Inoghi è una prigione. Una prigione, Tony. Non sei uscito da lì? Poi che non mi reggo in piedi. Ho dimagrito tantissimo lo stesso. E poi sono debole, cosa esci? Oh, via. Caspita. Dopo mi si piace a te. Cavolo. Dice, se c'è qualcuno che ha acceso il baracchino, vuoi tra. C'è qualcuno su 10? Oh, sì. Canale dei morti, avere ragione di una volta, per calendare da Tarì. E allora, l'hanno fatta morire, proprio non dico gatto, uno ogni tanto a entrare, gatto, proprio mi hanno fatto morire. Era manco mi avevano fatto compagnia bu, non ritardo alla sera, così abbandonato da tutti proprio. E poi chi ti ha portato la portante, cazzo di ti guarda, io ho fatto un baracchino per pure la portante, che senso ha? Che bus ci prendono, cazzo, mi sembra verità, ma niente, manca, cazzo, manca verità. No. Oi. Comunque fate caso, funziona su, dice sempre ben tratto da Cisi, perché condizionatore non attacco la tarì, anche è troppo freddo. Mi manca buona mozzi, no. Mentre la tua puntata in alto, gira fuori l'aria, vabbè che è la matessiaria. Comunque un po' di leggermente sollievo ce l'ho. Poi in caso la verità sto bene. Fuori non si può già. Oh, anche a buona fiala, le piante lo mandano al mizzo, che con lo giorno lungo. Ando a metà secchi oggi. Pensa un gaggio che farti. Adesso l'ennaffio quando cade il sole. Anche tanto prima, poi non fa vedere una zizzola pugliola ha già avuto, mi si è posa sulla mano, tragico, non c'è per fuggita, è ritornata di nuovo giù la mano, una scuola per fuggita, abbiato in sé, chi tu mi vedi, allora funziona, ma appunto nello gomito, la massa gliene fare, eh? E infatti, e era corrigata di come venne innaffiato, quando è buio, almeno sei tranquillo. Se no è papà subito reva. Crugati non vada a fumare. Non so la tarì. Proprio così. Infatti mi toccare il sole che ci apponeva, ma allora io non è nato di nuovo. Torno a fare la sera e la mattina. No, basta. Purtroppo. Io oggi sono entrato pure un contagio. Che ha mangiato una cazzata, ma ha mangiato i panciottini, che cazzo, e la mia fritta me la giovati. Ma siccome stasera io faccio un po' di fame oggi, due spaghetti per il forzo, mi faccio un bel sugo con i pisilli, non è che cazzo, una gara, mangiami entra, sempre ho insalato, ho fettina, e basta, cazzo, una gara, mangiami entra, e cazzo, non si butta. Deve cambiare di adatto la tarifa. Cosa ha, Tony? Ho detto che stasera vi faccio due spaghetti, quello al sugo dei pisilli. E via da te. Io neanche la forza di farmi quelli, cioè. Figurati. Sto aspettando il turno di mia moglie, meno male che mi ha messo in moto la macchina, era tanto tempo ferma. E dici che appunto in moto lo primo golpe. Manco male, tu andai da farvi un giro, gatta, che se no se da voi non mi vanno in moto la domenica, mi sa cucutito. La macchina voleva l'appunto, era da lì. Era partito 12 giorni fuori, poi sono tornato la prima colpa invece è morto, grazie a Dio. Oh, grazie a Dio già, sono macchine buone, non è come una volta andata lì per carità e poi lui. Sì, comunque insomma, già c'è la tua moglie che può fare una bella pasta asciutta, o quello che decidere, dai, non devo farci. Vabbè, devi mangiare zero comunque. A chi è inutile, se poi non cambiare manco Antonio, Antonio ha fatto un giro eccetera e sarà un po' bisogna fatta la ministra e poi dopo ma messaggino mi ha rivinto, mi dice vedi a me non lo so moltissimo perché cambiare sto cosa per farlo, la faccia all'altra e me lo posso pigliare benissimo una cosa, ma poi mi devi fare la forza. Sì, infatti, ma uno che non cammina come te me è tutto molto male, mamma mia. Io non so come mai come ti sopra arrivi da sei così. Io so, questo è stato il messaggio che mi ha mandato mensurita. Il ventilatore non fa niente. Il condizionatore fa niente. Sì, il ventilatore non fa niente. E cosa vuoi fare? Dici, per l'altro non fa tenuta. Allora manco un po' di cose, di arietta, poco poco, e vabbè, non so che la stessa aria che ti in casa, però te la smuove un po', invece il condizionatore ti crepa. Io ho un condizionatore bello, grande, in camera, e uno piccolino in cucina. E boh, il condizionatore in camera e in cucina, la spina è attaccata, non accendere affatto. No, io ho messo il ventilatore già va bene, puntato in alto per non farmi male. Almeno smuove un po' d'aria, se no non si bruciano manchi in occhi, io ho capacità di vedere. Vabbè. Oh, ioi, senti che scherzi, quando vado a trovare la 50, mi porto a se vuoi un freccio, chi mi ha giurato mi sa che proprio lunedì che io mi darò un cazzo. Ma frecca, vedo me. Ehi, non ti la faulano, si vede il frecco, vedi la sindrome. E da poco ho visto 50. Sì. Anche fa vedere con l'amica Zoya che c'ha Zichini, Arizio e via Muraglia. E non ho salutato, non termino a fare come sta. Capito. E a volte faccio quella strada lì per accorciare per andare dalle mie 50. Mica. Vabbè, tu mi dà, ti lascio il tuo da fare che io... Adesso staranno rientrando così mi va a dire che cosa mangia appena appena e via. Ci sentiamo da mancura nei pavidaggi. Ok Natalis, ma se vuoi ripeto anche più tardi o domani, se capita non c'è problema io accetto. Lascio acceso così vediamo, fischio intanto così se c'è qualcuno per me. Anzi mi va a sempre zitta, non tenere guarda chi lo fa. Ok Natalis, dai! Ti auguro le miglior cose, un abbraccio grande, stammi bene, ci sentiamo. Ciao Natalia, saluta mia 50. Ciao. Ti cambio al 100%, dai, grazie per la chiacchierata. E passa in strada, chi non mi lo entra mai nessuno. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, dai. Allora devo via che sono pure disidratato. Ok. D'accordo, fai ci riparare, ci sentiamo. Ciao. Quindi questo è il canale Vinci. Prova a fare un passaggio un po' più lungo, conta sino a 8. Prova a contare sino a 8. Ho detto, mi senti bene troppo alto il volume? Ok, allora regola più il volume così poi ti fai che non ti disturbi. Io ti sento benissimo. Tu mi senti bene? Beh, siamo attaccati, però vuol dire che stai uscendo bene. Aspetta che scende, così poi ce la proviamo in cammino. Bene, puoi partire? Forte e chiaro sempre. Tu mi senti bene sempre? Tanto fatto il giro dal corvo. Va bene. Già prendi? Prende a portatore, fantastico. Tutti i chilometri chiari, campo? Sì, a campo aperto, anche 20, 25. Poi bisogna vedere gli ostacoli che c'hai nell'altezza in cui sei. Però io ti sento sempre a fondo scalo, sempre al massimo del segnale e della radio. E anche io ti sento a buono. Magari stai scendendo giù all'altro ingresso, giusto? Ho detto stai scendendo giù verso l'altro ingresso. Sì. Considera che linea d'aria adesso per esempio tu sei coperto dalle case, ma dovresti sentirti sempre. Sì, anche tu qua stai arrivando a fondo scala. Se c'è qualcuno sul canale 10 per un controllo all'amico Mauro, sei già arrivato giù e sei sempre al massimo del segnale. Va bene. Già sono all'ascolto qua. Quando hai bus? Ma alla fine hanno finito con i mercati? Sembra che abbiano finito. Quando poi si decidono 5 pizze dolci, alla fine tutto a posto. Aspetta, non è finita domani. Ma c'è garanzia o c'è qualcosa? Sì, teoricamente c'ha i certificati di garanzia dentro nelle istruzioni. poi c'è la garanzia Amazon che può fare il resto qualora non funzionasse, però non so quanto tempo abbia, ma solitamente hanno uno o due anni di garanzia. Sì, ma se qua entro 30 giorni ti dà problemi lo restituiamo, o se no c'è la garanzia Amazon che ti copre per altri 6 mesi, un anno e mezzo. E sei sempre al massimo del segnale. Sì, ma io da qua ti becco sino a Florina, sino a Cargeghe, e anche dentro Sassari, se tu giri dentro Sassari io ti becco. Scappa. Magari domani, se te lo metti in barra pesante, mi chiami e mi dici più o meno la distanza, lo tieni acceso, io ogni tanto ti chiamo e mi chiami, e vediamo da dove riesco a sentire. Quello sì, vediamo. Via. Anche domani mattina, se vuoi, mentre stai andando, vediamo sino a dove ti senti. Domani mattina alle 4. Chiamami domani mattina alle 4. Va, prima di andare mi passi due passe e sono a posto. No, però ti sento benissimo. Sei parcheggiato dentro casa adesso, giusto? No. Perfetto. Ti sento bene, anche quel microfonino non è male, eh. È chiara la voce. Sì, anch'io ti sento bene. E io qua ho il microfono, quello da stazione da base, da col pulsante, col microfono grande, diciamo, va. Però per essere un mic così piccolino, quello si sente bene. Sì, ma sei sempre al massimo del segnale. Va bene, dai. Tu quando sei in un range decente, vuoi fare una prova, mi fai uno squillo e proviamo a vedere se dove ci sta. Via, ciao amore, a domani, ciao. Four, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12.